Il vero amore, da dove procede? Da quando l'uomo è comparso sulla terra, non fa che parlare d'amore. Ne parla pubblicamente, privatamente, nei romanzi, nelle poesie, nelle canzoni. Nonostante che l'amore sia sulla bocca di tutti e quasi tutti affermino d'amare, quane è troppa malvagità per crederci. O gli uomini mentono e si ingannano. Per non essere maligni o mancare d'amore che non sospetta il male, dobbiamo concludere che gli uomini si ingannano quando sostengono che amano. Ingannarsi è facile, ma un conto è ingannarsi nell'acquistare un'automobile, un altro quando si pensa ad amare, e invece è il contrario. E più che mai opportuno allora comprendere com è il vero amore. Come sempre, la parola di Dio mette chiarezza anche per questo argomento. L'apostolo Paolo era stato liberato dalla prigionia a Roma e mentre si recava in Macedonia aveva incaricato Timoteo a dirigere la chiesa ad Efeso. Mentre era in Macedonia, Paolo scrive la sua prima lettera a Timoteo trattando dei problemi che Timoteo avrebbe affrontato. Dopo una breve presentazione, Paolo invita il suo discepolo a rimanere ad Efeso per mantenere l'ordine e impedire che avvengano discussioni, ma promuovere l'opera di Dio basata sulla fede. Lo scopo del suo incarico era quello di suscitare l'amore perché è solo amando che si adempie la volontà di Dio. Le domande che sorgono sono: qual è lo scopo del loro ministero per coloro che servono Dio? I servitori di Dio promuovono discussioni, contrasti, liti, divisioni o suscitano nei credenti l'amore per Dio e il prossimo? Se suscitano l'amore, che tipo d'amore insegnano e suscitano nei cuori dei credenti? Paolo, all'inizio di questa lettera, risponde a tali interrogativi e fa un'affermazione unica, presentando l'amore sotto un triplice aspetto. Questa triade di fonti dell'amore dovrebbe essere tenuta presente costantemente sia da chi predica, sia da chi professa di amare. Leggiamo l'affermazione dell'apostolo Paolo. Lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera, 1 Timoteo 1:5. Per Paolo il trinomio cristiano è un cuore puro, una buona coscienza e una fede sincera. Cerchiamo ora di esaminare dettagliatamente ogni aspetto. L'amore che procede da un cuore puro. Lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da. Secondo la Scrittura è Dio che fa conoscere all'uomo qual è il suo pensiero. Poiché, ecco, egli forma i monti, crea il vento e fa conoscere all'uomo il suo pensiero. Egli muta l'aurora in tenebre e cammina sulle alture della terra. Il suo nome è Yahweh, Dio degli eserciti. Amos 4:13. Il famoso detto conosci te stesso è più che mai attuale, ma spesso esso rimane come una grande montagna impossibile da scalare, per cui non ci rimane che dire: conducimi tu alla rocca CH. È troppo alta per me. Salmo 61:2. Tutti gli psicologi sono d'accordo che gli uomini sono mossi più da istinti oscuri che dalla ragione. Ecco perché il salmista diceva con tutta onestà: esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Salmo 139:23. Un uomo onesto è colui che si rende conto di avere dei lati oscuri della sua personalità e chiede a Dio di rivelargli ciò che non comprende. Nel libro del Deuteronomio ci sono da parte di Dio degli avvertimenti riguardo ai nostri pensieri nascosti. Considerare questi avvertimenti significa fare una piccola indagine nella zona d'ombra del nostro essere, esaminare i propri pensieri segreti. 1. Non dubitare. Sterminerai dunque tutti i popoli che Yahweh, il tuo Dio, sta per dare in tuo potere, il tuo occhio non si impietosisca, e non servire i loro dei, perché ciò sarebbe per te un'insidia. Forse dirai in cuor tuo, queste nazioni sono più numerose di me, come potrò scacciarle? Non ne temere. Ricordati di quello che Yahweh, il tuo Dio, fece al Faraone e a tutti gli egiziani. Ricordati delle grandi prove che vedesti con i tuoi occhi, dei miracoli e dei prodigi, della mano potente e del braccio steso, con i quali Yahweh, il tuo Dio, ti fece uscire dall'Egitto. Così farà Yahweh, il tuo Dio, a tutti i popoli dei quali hai timore. Deuteronomio 7, 16, 18. Quante volte di fronte a difficoltà abbiamo detto nel nostro cuore che sono troppe grandi per noi. Non dobbiamo lasciarci prendere dalla paura, ma ricordarci come Dio ha operato nel passato. La fede del presente deve essere sostenuta da quella sperimentata nel passato. Ogni opera che facciamo, ogni parola che proferiamo, dipendono da quello che abbiamo stabilito nel nostro cuore. Nessuno può sondare i pensieri segreti del nostro cuore, ma non possiamo neppure sdoppiarci. Come noi pensiamo nel nostro cuore, così facciamo. Il dubbio è un bastone fra le ruote. È una ruota sgonfia. È un punto debole della nostra armatura cristiana dove Satana lancia le sue frecce. 2. Non inorgoglirti. Guardati da dimenticare Yahweh, il tuo Dio, al punto da non osservare i suoi comandamenti, le sue prescrizioni e le sue leggi che oggi ti do, affinché non avvenga, dopo che avrai mangiato a sazietà, e avrai costruito e abitato delle belle case, dopo che avrai visto il tuo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi, accrescersi il tuo argento, il tuo oro e abbondare ogni tua cosa, che il tuo cuore si insuperbisca e tu dimentichi Yahweh, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, che ti ha condotto attraverso questo grande e terribile deserto, pieno di serpenti velenosi e di scorpioni, terra arida, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna che i tuoi padri non avevano mai conosciuta, per umiliarti e per provarti, per farti alla fine del bene. Guardati dunque dal dire in cuor tuo: la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno procurato queste ricchezze. Deuteronomio 8, 11, 18. Le vittorie che riportiamo nella vita cristiana possono nascondere un'insidia, l'orgoglio. Questo peccato ha fatto cadere i più grandi uomini. Chiediamo a Dio di non cadere nel peccato più grave che l'uomo possa commettere. Davide, il figlio di Isai, è stato definito l'uomo secondo il cuore di Dio. Nonostante abbia commesso vari peccati gravi, tradimento, adulterio, omicidio, inganno. E questo perché non riscontriamo nella sua vita l'orgoglio. 3. Non sentirti meritevole. Sappi dunque oggi che Yahweh, il tuo Dio, è colui che marcerà alla tua testa, come un fuoco che divora. Egli li distruggerà e li abbatterà davanti a te, tu li scaccerai e li farai perire in un attimo. Come Yahweh ti ha detto. Quando Yahweh, il tuo Dio, li avrà scacciati davanti a te, non dire nel tuo cuore: è per la mia giustizia che Yahweh mi ha fatto entrare in possesso di questo paese, poiché Yahweh scaccia davanti a te queste nazioni per la loro malvagità. No, tu non entri in possesso del loro paese per la tua giustizia, né per la rettitudine del tuo cuore, ma Yahweh, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni davanti a te per la loro malvagità e per mantenere la parola giurata ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Non è dunque per la tua giustizia che Yahweh, il tuo Dio, ti dà il possesso di questo buon paese, perché sei un popolo dal collo duro. Ricordati, non dimenticare come hai provocato all'ira Yahweh, il tuo Dio, nel deserto, dal giorno che uscisti dal paese d'Egitto, fino al vostro arrivo in questo luogo, siete stati ribelli al Signore, Deuteronomio 9, 3 a 7. Come è facile perdere di vista la misericordia di Dio, spesso scatta in noi un senso di giustizia, di perbenismo, e prima o poi questo sentimento ci tradisce. Ed ecco che nel nostro cuore pensiamo di meritarci i favori di Dio e di trovare ingiuste certe prove. Come Israele noi siamo di collo duro. 4. Non essere calcolatore. Se ci sarà in mezzo a voi, in una delle città del paese che Yahweh, il tuo Dio, ti dà, un fratello bisognoso, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso? Anzi, gli aprirai largamente la mano e gli presterai tutto ciò che gli serve per la necessità in cui si trova. Guardati dall'accogliere nel tuo cuore un cattivo pensiero che ti faccia dire: il settimo anno, l'anno di remissione è vicino, e ti spinga a essere spietato verso il tuo fratello bisognoso, così che non gli darai nulla, poiché egli griderebbe al Signore contro di te e un peccato sarebbe su di te. Dagli generosamente, e quando gli darai non te ne dolga il cuore, perché a motivo di questo, Yahweh, il tuo Dio, ti benedirà in ogni opera tua e in ogni cosa a cui porrai mano. Poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese, perciò io ti do questo comandamento e ti dico: apri generosamente la tua mano al fratello povero e bisognoso che è nel tuo paese. Deuteronomio 15, 7-11. Ogni 7 anni l'ebreo doveva rimettere i debiti al debitore. Se il prestito lo si faceva vicino ai 7 anni, questo diventava più un dono che un prestito, per cui conveniva non prestare a chi aveva bisogno. Ma l'amore non fa calcoli. Il vero bene è fatto per aiutare il prossimo, non per trarne vantaggio. 5. Non preoccuparti. Io farò sorgere per loro un profeta come te in mezzo ai loro fratelli, e metterò le mie parole nella sua bocca, ed egli dirà loro tutto quello che io gli comanderò. Avverrà che se qualcuno non darà ascolto alle mie parole, che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome qualcosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dei, quel profeta sarà messo a morte. Se tu dici in cuor tuo, come riconosceremo la parola che Yahweh non ha detta? Quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non succede e non si avvera, quella sarà una parola che Yahweh non ha detta. Il profeta l'ha detta per presunzione. Tu non lo temere. Deuteronomio 18, 18-22. Dio ci invita a non preoccuparsi perché Egli è colui che provvede. L'ansietà del credente non onora Dio sia per le cose terrene che spirituali. 6. Non illuderti. Non vi sia tra di voi uomo o donna o famiglia o tribù che volga oggi il cuore lontano dal Signore nostro Dio, per andare a servire gli dèi di quelle nazioni. Non vi sia tra di voi nessuna radice che produca veleno e assenzio. Nessuno, dopo aver udito le parole di questo giuramento, si illuda nel suo cuore dicendo: avrò pace, anche se camminerò secondo la caparbietà del mio cuore. In questo modo chi ha bevuto largamente porta a perdizione anche chi ha sete. Yahweh non gli perdonerà, ma in tal caso l'ira del Signore e la sua gelosia si infiammeranno contro quell'uomo, tutte le maledizioni scritte in questo libro gli verranno addosso e Yahweh cancellerà il suo nome sotto il cielo. Deuteronomio 29, 18-21. Quello che Dio dice si avvera. Spesso ci illudiamo perché non vediamo avverarsi ciò che Dio ha promesso. Ma è solo perché Dio è misericordioso. Disubbidire a Dio commettiamo 3 peccati. Trasgrediamo la volontà di Dio, illudiamo noi stessi, facciamo inciampare gli altri. Il dubbio, l'orgoglio, il sentirsi degni, l'essere calcolatori, la preoccupazione, l'illusione, sono alcuni dei nostri pensieri segreti che impediscono al nostro cuore di essere puro e di conseguenza esprimere il vero amore. Ha un cuore puro colui che chiede a Dio di investigarlo, di esaminarlo, di provarlo, perché sa che in coscienza ha camminato nel giusto e se ha sbagliato è pronto. Scrutami, o Signore, e mettimi alla prova. Purifica i miei reni e il mio cuore. Salmo 26, 2. Ha un cuore puro colui che vive una vita comunitaria. Fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che invocano Yahweh con un cuore puro. 2 Timoteo 2, 22. Ha il cuore puro chi ha un parlare che corrisponde a quello che pensa. Tu hai scrutato il mio cuore. L'hai visitato nella notte, mi hai provato e non hai trovato nulla, la mia bocca non va oltre il mio pensiero. Salmo 17, 3. Il vero amore procede dunque da un simile cuore. L'amore che procede da una buona coscienza, lo scopo di questo incarico, è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. 1 Timoteo 1:5. Paolo afferma che esiste una buona coscienza, ma devo ammettere molto onestamente che mi è difficile accettare che esista una coscienza buona, o almeno che esista una coscienza buona come noi pensiamo. Per comprendere che cosa intendiamo per coscienza buona, dobbiamo prima considerare come è la nostra coscienza. In Giovanni 16, 2, è scritto che l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. E Facile per noi giudicare quelle persone che agiscono così col dire che essi sono in malafede o persone malvagie, ma se ci esaminiamo bene tutti, più o meno, facciamo del male al prossimo convinti di fare del bene. Noi pensiamo in fondo di essere migliori solo perché il nostro comportamento morale è diverso. Ma avere un comportamento diverso non significa essere migliori. Noi siamo convinti di agire con una buona coscienza, ma come scrive lo psicanalista Paul Tournier, la maggioranza degli uomini riflettono assai meno di quanto credono. L'elemento principale di agire di un uomo è principalmente il carattere di cui ciascun individuo è dotato. La ragione non guida per nulla le persone come si credeva un tempo. Le analisi di storici ed economisti come quelle dei marxisti, esistenzialisti e psicoanalisti ci hanno guariti da simile illusione. La ragione serve soltanto a giustificare, nell'area della coscienza chiara, il comportamento che ci viene dettato da oscure forze della natura, gli impulsi di istinti, quali quello della conservazione, di possesso o di aggressività, o l'istinto sessuale o quello di potere e di sviluppo, dal libro Problemi di vita. E un'analisi che fa pensare, e mi chiedo quanti di noi sono convinti di essere guidati, non dalla morale, ma da certi istinti che non conosciamo e dal nostro carattere. Per dimostrarvi che quanto dicono gli psicanalisti è vero, voglio raccontarvi due episodi. Vi fu un periodo che soffrivo di dissenteria. Mia moglie preoccupata voleva che mi curassi, ma io ero contrario. Così un giorno, mentre andavo alla radio per fare delle trasmissioni, mi chiese per caso se non era questo impegno che mi procurava questo disturbo fisico. In quel momento sentii una scarica partire dal cervello e andare allo stomaco. Avevo capito che quello era il problema e guarii all'istante. Quando nacque Davide, mia moglie aveva poco latte. Dopo un mese dovemmo andare a Torino, la città dove era cresciuta e che ne sentiva molto la mancanza. Come arrivammo all'uscita dell'autostrada per Torino, mia moglie aveva tanto latte che usciva da solo. Si sentiva a casa, e questo fatto aveva prodotto in lei quello che stava succedendo. Leggiamo ora un altro trafiletto di uno psicanalista di Roma, Emilio Servadio, che può gettare luce su alcune problematiche della nostra vita. Una giovane signora, da me analizzata, comprese a poco che tutti i suoi amori infelici, incluso l'ultimo, terminato con un matrimonio e con un'altrettanta rapida separazione, erano stati inconsciamente desiderati e voluti da una parte inconscia di se stessa. Pur affermando coscientemente di voler incontrare un uomo che le desse pace e sicurezza, questa donna tendeva inconsciamente a riprodurre situazioni di ansia e di timore, molto simili a quelle che, da piccola, aveva vissuto in famiglia con un padre incostante, dominatore di donne, e sempre a corto di denaro. Analogamente, un giovane professionista aveva sempre fatto in modo di incontrare ragazze che potessero a un certo punto apparirgli come donne infide e crudeli, secondo un'immagine che gli si era fatto della donna in epoche estremamente precoci del suo sviluppo psichico. La controprova in questi due casi di fatalità interiore era data dal fatto che, quando la signora o il giovane avevano incontrato persone equilibrate e gentili, dalle quali non potevano attendersi amarezze, delusioni e burrasche sentimentali, le avevano lasciate subito cadere, dichiarandole del tutto prive di La conclusione unanime è che nella vita psichica non c'è, è posto per il caso. Quando constatiamo che un uomo o una donna, in amore, negli affari, nelle amicizie, nelle iniziative, incontrano sempre e con grande frequenza gente cattiva e squilibrata, ostacoli e fallimenti, dobbiamo ritenere che essi soffrano di una nevrosi di insuccesso e che invece di imprecare contro il destino o di infuriarsi contro persone o cose, essi farebbero meglio a cercare di risolvere i loro inconsci problemi personali con l'aiuto di uno psicanalista. Un'analisi del genere non lascia indifferenti. Sofferenze cercate sembra assurdo, ma è vero. A volte, nella nostra quotidiana esperienza, abbiamo constatato la realtà di questa analisi. Più passa il tempo, e più mi rendo conto come sia vero che noi siamo guidati da istinti nascosti e che usiamo la parola di Dio per giustificare il nostro comportamento. Mi rendo conto che una simile affermazione può offendere qualcuno, ma non possiamo parlare di una coscienza buona e pura quando siamo soggetti ai nostri istinti e alla nostra cultura. Noi leggiamo la parola di Dio proiettando in essa tutte le nostre mancanze e il nostro carattere. Se siamo sanguigni troveremo importanti i passi dove esortano ad essere zelanti e attivi. Fin dal mattino semina la tua semenza e la sera non dar posa alle tue mani. Ecclesiaste 11, 6. Se siamo persone riflessive troveremo importanti i passi che invitano alla prudenza. L'ingenuo crede a tutto quel che si dice, ma l'uomo prudente fa attenzione ai suoi passi. Proverbi 14 e 15. Per i testimoni della torre di guardia Gesù non è Dio, e tutto quello che leggono nella Scrittura lo interpreteranno in quella luce. Trovano nella Scrittura il riflesso delle loro idee. Tutto dipende dai nostri presupposti. Se qualcuno pensa che la donna abbia un ruolo limitato nella Chiesa, preghiera, predicazione, tutto quello che legge lo vedrà condizionato dai suoi presupposti. Ho conosciuto una sorella che riteneva peccato il fischiare degli inni. Troviamo oggi milioni di donne che abortiscono senza provare il minimo rimorso. Milioni di persone oggi sono omosessuali, altri sono adulteri e non provano il minimo rimorso. Quando i nostri sentimenti dominano la nostra vita, la nostra coscienza è praticamente morta. E come volere far capire ai giovani che i rapporti sessuali prima del matrimonio sono sbagliati? Assurdo. I loro sentimenti sono troppo forti perché sentano ciò la voce della coscienza, e una loro eventuale adesione alla parola di Dio è fatta per fede o per cultura. Ecco perché troviamo persone che uccideranno altre pensando di fare un sacrificio a Dio. Nonché è nulla di strano. Non si fa mai tanto il male volentieri se non quando si pensa di fare la volontà di Dio. Se l'Apostolo Paolo perseguitava i cristiani, se il cattolicesimo ha dato avvio alla Santa Inquisizione, niente di strano, allora se si arriva a uccidere pensando di compiere un atto gradito a Dio. Come? È possibile allora parlare di una coscienza buona e pura? Personalmente vedo due condizioni. Perché questo sia possibile. 1. Prima di tutto essa deve essere stata toccata dalla rivelazione divina. In altre parole, uno che non è cristiano non può affrontare obiettivamente le cose. Con questo non voglio dire che i cristiani siano tutti obiettivi e abbiano una coscienza buona e pura. Anzi, a volte vi sono persone che non conoscono Dio e sono moralmente più pure di certi cristiani. Ma mi riferisco a quanto Paolo disse in Romani, che gli uomini, pur conoscendo Dio in una certa misura, se non lo accettano, diventano stolti. In altre parole, colui che non accetta la rivelazione di Dio, cioè il modo di ragionare di Dio che è molto diverso dal nostro, si crede in pratica più sapiente di Dio e quindi diventa stolto, non saggio, e la sua coscienza ne è influenzata. La mia conclusione è questa. Una coscienza che incontra Dio e la sua rivelazione, se non lo riconosce e lo accetta come tale, non può essere buona e pura. 2. La seconda condizione perché possa esserci una coscienza buona e pura deve essere dettata da un comportamento come quello che troviamo nel Salmo 139. Esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se ci è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Il salmista è una persona onesta e leale, eppure prega che venga esaminato, che venga provato, e ammette la possibilità che abbia una via iniqua. Questa è onestà. Avere una coscienza pura e buona significa credere di camminare in sincerità e purità, ma lasciare a Dio che le circostanze rivelino veramente la sua onestà. E quando Dio esamina, usa gli uomini, le circostanze negative dalla vita. Il salmista chiede a Dio di rivelargli se vi è una via iniqua. Egli non gli chiede se vi sono dei peccati, perché li avrebbe condannati, ma il salmista teme che nonostante il suo comportamento sia dettato dalla coscienza, vi sia una via che non sia buona. Una coscienza pura ammette di poter avere comportamenti non giusti. Se la persona sincera è colei che ammette di non essere sincera, possiamo affermare che una coscienza buona e pura può esserci solo in chi ammette di non avere una coscienza buona e pura. Chi secondo voi è più facile che eviti un errore, colui che vede il pericolo o colui che non lo vede? Chi può allora avere e vivere con una buona coscienza colui che crede di vivere in pura coscienza? O colui che sa di avere una natura corrotta, contraddittoria e quindi ammette che nonostante tutto può anche sbagliarsi? Possiamo dire con il salmista: chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti. Trattieni inoltre il tuo servo dai peccati volontari e fa che non prendano il sopravvento su di me. Allora sarò integro e puro da grandi trasgressioni. Salmo 19, 12-13. Ecco un uomo con una coscienza buona e pura. 1. Sa di non conoscere tutti i suoi errori, ammette i suoi limiti. 2. Chiede a Dio di non commettere dei peccati volontari, desidera la santità. 3. Chiede che non sia vittima o schiavo di questi peccati, desidera onorare Dio. Solo allora è cosciente che sarà integro e puro da grandi peccati. Quelli piccoli o inconsci, li rilette nelle mani del Dio misericordioso, Esodo 34, 6. Non ci rimane che confessare a Dio tutta la nostra natura corrotta, e Dio ci darà il suo soccorso. O Signore, fammi conoscere la mia fine, e quale sia la misura dei miei giorni. Fa che io sappia quanto sono fragile, Salmo 39, 4. Questo atteggiamento produce un vero amore. L'amore che procede da una fede sincera, non finta. Lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da Dujinti. Se la parola di Dio parla di una fede sincera, ciò significa che può esisterne una che non lo è. Questo solo fatto dovrebbe metterci in guardia e verificare la validità della nostra fede, perché un amore vero non può contenere una fede finta. Ecco quindi alcuni elementi di una fede sincera. 5. Elemento operativo. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la risurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore, Romani 1:1-4. Il cristianesimo si distingue dalle altre religioni del mondo? Le religioni di Grecia e di Roma, di Egitto, dell'India, della Persia e dell'Oriente in generale, furono sistemi speculativi che non cercarono neppure di darsi una base storica, proprio al contrario del cristianesimo. Il solo carattere del cristianesimo, cioè Gesù annunciato dai profeti per millenni, è sufficiente, secondo molti studiosi, per dargli un posto del tutto a parte nella vicenda religiosa del mondo. Il cristianesimo non tratta idee o opinioni che vengono discusse, ma tratta fatti che si credono o si negano. Un giorno testimoniavo a una persona della mia fede riposta in Gesù, e questa, dopo avermi ascoltato, rispose pensando di chiudere la partita: ma io non la penso così. Subito ribattei: vede, qui non si tratta di pensarla in un modo o in un altro, qui si tratta di accettare dei fatti storici o di rifiutarli. Lei, pensando così, non risolve nulla, perché, se anche la pensa diversamente, non cambia i fatti. Paolo predicava degli avvenimenti storici, i Corinzi 15:1-12, Romani 1:1-4. Egli sapeva che senza una conoscenza l'uomo non poteva credere. Romani 10:14-17. Il cieco nato, alla richiesta di Gesù, se credeva nel Messia, gli rispose: chi è perché io possa credere? Giovanni 9:35. L'apostolo Giovanni scrive il suo Evangelo perché sapessero chi era Gesù e perché, sapendolo, potessero credere. Giovanni 20:31. La vera fede è ancorata a dei fatti storici che si accettano intellettualmente. La fede è sempre certezza in cose che si sperano. Spesso il problema non è l'intelletto, ma il cuore. E, più difficile, convincere il cuore che istruire l'intelletto. Paolo stesso afferma che i pagani si rendono conto che esiste un creatore, ma non lo ringraziano. E, questione di cuore, non di intelletto. Romani 1 e 21. Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Romani 10, 9-10. Conoscere l'Evangelo non basta. In seguito occorre la risposta del nostro essere, cioè credere con il cuore. Nella Bibbia il cuore rappresenta ciò che è di più profondo nell'uomo, il suo essere interiore, il suo io, l'anima. Esso è la sede dei sentimenti, dei desideri, della volontà e delle decisioni. In pratica la parte più profonda di noi deve essere coinvolta nell'atto di fede. Si capisce quindi che non è un'adesione mentale, ma si è pronti a essere coinvolti nel profondo. Proprio per questo, la Scrittura usa la parola conoscere, Osea 6:3, Romani 10:2, 1 Giovanni 4:6, Galati 4:8-9, Genesi 4:1. Conoscere non vuol dire sapere con la mente, ma lasciarsi totalmente afferrare, coinvolgere dalla realtà che si conosce. La parola conoscere è impiegata sia nel campo sessuale che spirituale, perché con essa si intende l'acquisizione della sensazione completa della presenza o vitalità dell'altro, come abitualmente si ha della propria. E per questa ragione che molte persone quando fanno l'esperienza della nuova nascita affermano di aver conosciuto Dio. Essi non intendono dire che sanno esattamente chi è Dio, ma esprimono con questo termine l'esperienza che hanno fatto. Essi hanno avuto un incontro con Dio tale che hanno avvertito, come in un rapporto sessuale, la sua presenza e la sua vitalità, al punto che non sono più gli stessi. Ecco perché Dio comanda all'uomo di conoscerlo, cioè egli vuole diventare una realtà che condiziona la vita. A qualcuno può anche spaventare questo aspetto, per cui a volte io chiedo se è disposto a credere. Se uno vuol fare la volontà di Lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Giovanni 7:17. Una volta che si è conosciuta la verità e disposti a credere, occorre un atto di volontà. Credere in Cristo significa decidere di volerlo accettare come Signore e Salvatore, Giovanni 1:12. E decidere di mettere in azione la fede intellettuale. Spesso alle persone che affermano di essere confuse, di non capire, di non sapere cosa fare, chiedo: vuoi tu credere? Il Signore lo vuole, io lo voglio, se tu lo vuoi nulla ti impedisce di diventare figlio di Dio. Risulta evidente che molte persone desiderano credere, ma non vogliono realmente farlo. Credo che questo sia il vero ostacolo di fondo. Vi sono persone che affermano di credere solo in quello che vedono. Ma la nostra vita è sostenuta non solo di pane, ma anche di amore, amicizia, affetto, fiducia, cioè di cose astratte. Se osserviamo una mela, essa ha due emisferi, ma la verità è tutta la mela. Così la vita è composta di cose materiali e spirituali. Chi nega le spirituali comprende la vita solo in parte. Il problema è la volontà. Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Romani 10:9-10. Bisogna credere con il cuore, ma occorre anche confessarlo. È difficile affermare che una persona è salvata solo se crede con il cuore, perché se uno si vergogna di Cristo, anch'egli si vergognerà di Lui. Ecco altre affermazioni al riguardo. Chi mi rinnega, anch'io lo rinnegherò. Matteo 10:32-33. Ho creduto, perciò parlerò. 2 Corinzi 4:13. Se lo rinneghiamo, egli pure ci rinnegherà. 2 Timoteo 2:12. Quando Gesù venne per morire sulla croce, non mise la condizione di essere amato, ma è impossibile amarlo senza proclamare il suo nome. 5. Elemento operativo. Infatti, in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Galati 5, 6. Quello che vale è una fede che opera. Una fede che salva produce innanzitutto delle opere. Ecco un pensiero che mi ha dato da riflettere. Mentre la Chiesa di Roma fa naufragio confondendo legge e Vangelo, la Chiesa evangelica è esposta al pericolo di separare la legge dal Vangelo. Il primo errore mette gli uomini nella condizione di salvarsi con le loro proprie opere. Il secondo porta gli uomini a pensare che essi possono essere salvati vivendo nei loro peccati. Forse noi cristiani evangelici abbiamo bisogno di mettere più enfasi sulle opere come mezzo di salvezza. Ma di questo ne parleremo meglio più avanti. Quando noi diciamo che l'uomo è salvato per fede, noi diciamo una verità, ma non tutta la verità. Perché, mi direte? Ecco alcune ragioni. 1. La fede non ha mai salvato nessuno. Chi salva è Gesù Cristo. 2. Noi siamo abituati a pensare alla fede come a una cosa sola. Ma la fede, per essere tale, è composta di più elementi. Come la parola fede, perché possa essere una parola, ha bisogno di 4 lettere. Così la fede che salva ha bisogno di più elementi, tra i quali le opere. 3. Come mezzo di salvezza valore tanto la fede come le opere. 4. Non si trova nella Bibbia un solo testo che affermi che la salvezza è ottenuta solo mediante la fede. Il vero cristianesimo non ha mai insegnato che una volta salvati si può fare quello si vuole, ma che i veri salvati si conoscono dalle opere, Giacomo 2, 14-26. Ecco altri testi meno conosciuti che parlano della indispensabilità delle opere. Galati 5, 19-21. Colossesi 3, 5-6. Efesi 5, 5. 1 Corinzi 6, 8-10. La vita di un cristiano cambia, se non cambia non è un cristiano. Il giusto vivrà per fede. Se non vive per fede non è un giusto, e va in perdizione. Ebrei 10, 38-39. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Galati 5, 6. Non è mia intenzione far polemica, ma dopo tutto quello che abbiamo considerato, com'è possibile accettare che un neonato diventi figli di Dio mediante il battesimo, come afferma la religione cattolica? Non eredita il regno di Dio. Per queste cose l'ira di Dio viene. Non ha alcuna eredità nel regno di Cristo. Gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio. Una cosa da ricordare. Uno o due di questi elementi non sono sufficienti. L'ordine di sapere, credere, confessare, operare, non deve essere alterato. Non si può credere ciò che non si conosce. Non si può confessare ciò che non si crede. Non si può operare ciò che non si confessa. Il Signore invita continuamente le persone a credere. Nessuno sarà perduto per caso, ma ognuno andrà in perdizione perché l'avrà voluto. Il perduto è colui che rifiuta volutamente la salvezza. Gesù chiese perdono per i suoi assassini perché non sapevano quello che facevano. Luca 23-24. Paolo fu perdonato perché agiva per ignoranza. 1 Timoteo 1-13. Ma chi conosce l'Evangelo può dire di non sapere quello che fa e di essere ignorante. Davanti a Dio chi non avrà creduto avrà la bocca chiusa e tutto il mondo si riconoscerà colpevole. Romani 3,19. In Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Galati 5,6. Solo una simile fede produce il vero amore. Maggio 2000 Ellero.